Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo la proroga decisa dal Consiglio dei Ministri, per le unità unifamiliari che hanno completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022, è possibile fruire del super bonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Ancora un nulla di fatto nel nuovo vertice del Comitato di Salute e Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura Trieste dedicato all'emergenza migranti. Rimane in piedi l'ipotesi dello sgombero del silos solo dopo il trasferimento dei presenti nella struttura. Nessuna decisione sarà comunque presa in tempi brevi. Viaggiavano contromano in autostrada durante l'esodo estivo. Due conducenti di nazionalità austriaca sono stati sanzionati dalla polizia stradale. Principio d'incendio questa mattina in un hotel a Grado, subito evacuato. Spente le fiamme, gli ospiti sono tornati nell'edificio. In occasione dell'anniversario dello sganciamento della bomba atomica su Nagasaki, questa mattina si è tenuta ad Aviano una manifestazione per il disarmo nucleare. Tra gli organizzatori anche il centro Balducci di Udine ed Emer. I ricercatori dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, hanno scoperto lungo la costa della Sicilia, tra Mazara del Vallo e Sciacca, tre grandi vulcani sottomarini, larghi circa 6 chilometri, alti 150 metri dal fondo del mare. A Cividale del Friuli torna l'antico splendore il tempietto longobardo al termine di un restauro degli apparati decorativi, stucchi, affreschi e la scritta dell'VIII secolo. Zanevair batte il suo record per tre volte lancia il peso oltre 22 metri al meeting brazzale di Vicenza. L'atleta di origine sudafricana, ma con un nonno di Trieste, mostra di essere in gran forma e guarda con ottimismo al mondiale di Budapest. Ancora in stallo la situazione del Pordenone Calcio, in attesa che venga completata la raccolta delle firme dei circa 80 dipendenti tesserati per la società neroverde, condizione necessaria per accedere al concordato preventivo in grado di garantire una continuità societaria. Le 12:32 minuti e 15 secondi, buongiorno da Giorgio Bearz e Dario Ronzoni per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 9 agosto. Ancora un nulla di fatto, quindi, nel nuovo vertice del Comitato di Salute e Sicurezza Pubblica svoltosi questa mattina in Prefettura Trieste dedicato all'emergenza migranti e finito poco fa. Rimane in piedi l'ipotesi dello sgombero del silos, di cui ancora però non si conoscono tempi né modalità. Si sta monitorando una situazione che col passare del tempo si fa sempre più difficile, ma per le ultime novità c'è Eva Ciuc in studio con noi. Allora, che cosa si è deciso o non deciso di fare oggi nel vertice? Buongiorno, è stato un altro incontro interlocutorio, come dicevi, sul quale però il prefetto Pietro Signoriello non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Al tavolo c'erano anche i rappresentanti di Coop Alleanza 3.0, a proprietari del silos di Trieste, che rispetto ad una settimana fa hanno informato i presenti di aver presentato una denuncia per invasione di edificio. Ora aspetta l'autorità giudiziaria di valutare come procedere. Il procuratore capo Antonio De Nicolo ha assegnato il caso a un giudice di pace. Sarà dunque aperto un fascicolo, ma gli esiti della denuncia non saranno immediati, sicuramente non entro la fine di agosto. Dato che il querelante, Coop Alleanza 3.0, non ha espressamente chiesto un provvedimento d'urgenza. I presupposti per ipotizzare il reato a carico di ignoti ci sono, ma il giudice dovrà anche valutare se esistano le aggravanti. Soltanto dopo le forze dell'ordine capiranno come procedere, cioè se riceveranno la delega ad identificare migranti o ad allontanarli per interrompere dunque il reato. Durante il comitato per l'ordine e la sicurezza non si è parlato di una soluzione alternativa dell'eventuale trasferimento dei migranti, che è più una competenza della prefettura. Dobbiamo prima avere un quadro della situazione all'interno del silos e poi si prenderanno decisioni collettive e coordinate, ha detto dopo la riunione l'assessore comunale alla famiglia e all'educazione Maurizio De Blasio. Grazie Eva Ciuc per queste informazioni e noi cambiamo argomento. E ora parliamo del super bonus per l'edilizia. A seguito della proroga decisa dal Consiglio dei Ministri, infatti, per le unità unifamiliari che hanno completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022, è possibile fruire del super bonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Sentiamo qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia. Chi sta completando i lavori per un edificio unifamiliare o per una villetta con il super bonus 110% avrà tempo fino al 31 dicembre prossimo per ultimare e pagare le opere. Nel decreto omnibus del governo arriva l'auspicata proroga che riguarda solo i casi in cui l'avanzamento dei lavori fosse almeno al 30% il 30 settembre dell'anno scorso. Le opere senza nuove deroghe dovranno essere finite entro il 31 dicembre. In regione, secondo i dati di Enea, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo Economico Sostenibile, sono quasi 10.700 le unità indipendenti e gli edifici unifamiliari che nel corso degli anni hanno usufruito del superbonus. Quasi il 90% degli interventi complessivi, per una media superiore ai 90.000 euro per i lavori. I condomini invece, pur pesando per l'11% del totale del numero di interventi, hanno ovviamente un investimento medio per l'efficientamento energetico molto più alto, di oltre 660.000 euro, che si spalma però su un numero di famiglie più ampio. Rispetto alle nuove scadenze ci sono delle eccezioni. Hanno diritto al superbonus ancora solo gli immobili posseduti da contribuenti con un reddito calcolato con il quoziente familiare inferiore ai 15.000 euro, mentre i condomini possono ancora usufruire del bonus solo se la delibera dell'Assemblea è anteriore al 25 novembre 2022. Dal 2024 dal 110% si passerà al 70% e poi al 65% l'anno successivo. Da capire però ancora come si agirà per le aree colpite dai disastri del maltempo. Una norma prevede infatti una scadenza ulteriore per il 31 dicembre, ma è da capire se rientreranno anche, per esempio, le grandinate di quest'estate. Intanto Poste Italiane, un anno dallo stop, ha deciso di far ripartire il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta. L'acquisto ripartirà ad ottobre e lo sblocco riguarderà esclusivamente le persone fisiche, limitato alle prime cessioni, per un ammontare massimo di 50.000 euro. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo alla cronaca. Doveva scontare una condanna definitiva a 7 anni e 7 mesi e per sottrarsi alla pena aveva deciso di fare ritorno in Albania, suo paese di origine, ma è stato rintracciato e tratto in arresto. Si tratta di un cittadino albanese di 30 anni al quale sono contestati ben 66 episodi di furto commessi tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto tra la fine del 2018 e il febbraio 2019, quando, al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Procura di Pordenone e condotta dalla locale squadra mobile denominata Operazione Predoni, il giovane veniva tratto in arresto unitamente ai suoi due complici in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. Gli agenti della squadra mobile hanno poi rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un precedente ordine di carcerazione, un 60enne vicentino da anni stabilmente residente a Pordenone, che deve scontare una pena di un anno e un mese di reclusione per inosservanza delle disposizioni delle misure alternative alla detenzione. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile e dapprima condotto presso gli uffici della questura e poi, dopo le formalità di rito, presso la casa circondariale di Pordenone. Viaggiavano contromano in autostrada durante l'esodo estivo. Due conducenti di nazionalità austriaca sono state sanzionate dalla polizia stradale. È accaduto nella giornata da Bollino Rosso di venerdì scorso sull'autostrada A23. Le due, dopo aver visto attraverso i portali che alla barriera di Ugovizza venivano segnalate code, hanno entrambe deciso di uscire a Pontebba. Percorrendo lo svincolo che porta al casello, si sono accorte però che anche in quel punto vi erano numerosi veicoli incolonnati per il pedaggio e hanno quindi imboccato lo svincolo contromano, vedendo poco dopo fermate da personale della società Autostrade mentre stavano percorrendo il tratto curvilineo dello svincolo in direzione contraria. Alle due conducenti è stata ritirata la patente e i rispettivi veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per 3 mesi ed è stata naturalmente loro comminata una pesante sanzione. Un principio di incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 8:30 a Grado in una struttura ricettiva. All'arrivo dei vigili del fuoco del presidio estivo di Grado, gli ospiti della struttura erano stati già fatti allontanare in via precauzionale. I pompieri hanno individuato l'origine dell'incendio nei pressi del locale termico e lo hanno spento. Dopo aver messo in sicurezza la zona, gli ospiti sono stati fatti rientrare nella struttura. In occasione della ricorrenza della bomba atomica sganciata su Nagasaki il 9 agosto del 1945, anche quest'anno il Comitato Pace, Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci ha in programma un momento di ricordo. L'incontro è nel Parco Culturale di San Giovanni a Villa Renner, vicino all'albero di Kaki, superstite al bombardamento di Nagasaki, e alla rosa di Hiroshima piantumata da Vladimir Vremez. Saranno lette poesie e riflessioni per ricordare il pacifista Edvino Ugolini a 10 anni della sua scomparsa, con l'accompagnamento musicale di Silvia Di Marino, inizio alle 19. Ad Aviano invece, sempre per ricordare la bomba atomica su Nagasaki, si è tenuta questa mattina una manifestazione per il disarmo nucleare. Tra gli organizzatori anche il Centro Balducci di Udine ed Emergency Pordenone. Un bambino che piange su una tomba, mariti e padri che non ritornano. Quello che resta dopo la guerra è il filo conduttore della 27ª edizione della manifestazione per il disarmo nucleare, organizzata davanti alla base di Aviano nel 78° anniversario della bomba atomica su Nagasaki. A promuoverla una lunga serie di associazioni, da Beati Costruttori di Pace al Centro Balducci, all'AMPI e a Emergency, a cui si sono aggiunti negli anni Pax Christi, la rete d'ASI Friuli Venezia Giulia, le Donne in Nero di Udine e l'ARCI Tina Merlin di Montereale. Ad aprire la manifestazione è stata la voce di Don Pierluigi Di Piazza, scomparso l'anno scorso, in uno dei suoi tanti interventi delle precedenti edizioni, in cui rievocava l'inferno di quel 9 agosto e quel crimine contro l'umanità. Poi due testimonianze, fra le quali quella di Don Giacomo Tolot, e il ricordo di Don Lorenzo Milani con brani delle sue lettere sull'obiezione di coscienza. Infine, una mano tesa anche ai militari della base, ai quali Don Albino Bizzotto ha indirizzato una lettera. Aviano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la situazione meteo. Il cielo è da variabile a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 23 gradi, il mare è calmo con temperatura di 25 gradi. E a Pordenone 23 gradi e 5 decimi, a Udine 23 gradi, a Gorizia 21 gradi e mezzo. A Tolmezzo 17 gradi, a Tarvisio 16, a Foni di Sopra 15 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 14 gradi, a Sappada 13 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan 9 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 9 gradi. 22 gradi e mezzo a Lignano, 22 a Grado, e qui la temperatura del mare è di 23 gradi e 5 decimi. Le previsioni per oggi pomeriggio: sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, in pianura variabile. Sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso e saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli, e dal pomeriggio anche qualche locale rovescio temporalesco. In nottata qualche rovescio temporale potrebbe interessare anche le altre zone della regione. I ricercatori dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, hanno scoperto lungo la costa della Sicilia, tra Mazara del Vallo e Sciacca, tre grandi vulcani sottomarini larghi circa 6 chilometri, alti 150 metri dal fondo del mare. Si tratta di rilievi che non figuravano nelle mappe utilizzate. La spedizione scientifica internazionale, durata dal 16 luglio al 5 agosto, è stata condotta a bordo di una nave tedesca, la Meteor, una scoperta sorprendente per un tratto di costa battuto da millenni, come spiega il ricercatore dell'OGS Emanuele Lodoli. Lo scopo era quello di studiare i vulcani che sono presenti nel canale di Sicilia. Ricordo che nel 2019 con la nostra nave OGS Explorer abbiamo scoperto una serie di vulcani molto vicini alla costa, tra Mazara del Vallo e Sciacca, di cui uno molto prossimo alla costa, solo i 7 chilometri. Però avevamo delle evidenze che altri vulcani erano presenti nel canale di Sicilia, e nel corso di questa campagna, che si è conclusa appunto pochi giorni fa, abbiamo avuto la possibilità, attraverso le indagini che abbiamo compiuto, di scoprire tre nuovi edifici vulcanici, alcuni dei quali abbastanza grandi, di cui avevamo, diciamo così, solo alcune informazioni approssimative. Non avevamo una mappa dettagliata e non avevamo dei dati specifici per poterli individuare, e così siamo riusciti comunque con i nostri strumenti a mapparli in maniera dettagliata e a raccogliere anche dei campioni di roccia che verranno analizzati successivamente. E questo è sorprendente se pensiamo all'area in cui ci troviamo, il canale di Sicilia, che è stato solcato da millenni da ogni tipo di imbarcazione, dai pescatori, dalle rotte commerciali, da vari natanti di ogni tipo, e il fatto di scoprire ancora oggi delle caratteristiche geologiche del nostro territorio, anche così prossime alla costa, ci fa capire ancora una volta di più quanto ancora sia ignoto ciò che ci circonda. A Cividale del Friuli torna all'antico splendore il tempietto longobardo, al termine di un restauro degli apparati decorativi con stucchi, affreschi e la scritta dell'VIII secolo. Dopo quasi 6 anni di lavori si sta ultimando il cantiere di restauro del tempietto longobardo di Cividale. Stefano Tracanelli è il direttore di questi restauri. Perché si è dovuto mettere mano al tempietto? Il tempietto longobardo era un caso ancora aperto dal 1976, dal terremoto del Friuli, e quindi c'erano delle situazioni di instabilità che dovevano essere regimentate. In particolare il restauro è iniziato con lo smontaggio e il restauro artistico del coro ligneo del 300. 1%. Successivamente un intervento di risanamento igienico-sanitario e architettonico del monumento, subito dopo siamo arrivati noi restauratori per gli apparati artistici. Parecchia attenzione è stata data all'ambiente del tempietto. Senza dubbio, essere intervenuti in maniera ambientale, quindi aver risanato un ambiente, ci porta a creare quelle condizioni per cui le opere sono più custodite, più protette, non hanno azioni degrado da parte di umidità, di freddo, eccetera. Quindi l'ambiente diventa un scrigno che custodirà queste opere in maniera ideale. Vediamo il tempietto di 1200 anni fa? Certamente, le opere sono state non solo restaurate, ma anche con un attento filologico intervento estetico sono state rese più funzionali da un punto di vista di lettura e estetico. Qualche sorpresa durante i lavori? Beh, i cantieri di restauro offrono sempre delle opportunità di studio e approfondimento e stiamo lavorando sul tracciamento del gesso che è stato usato per i famosi stucchi longobardi. Questa ricerca implicherà l'individuazione della cava dove è stato cavato questo gesso e questo sarà importantissimo per stabilire le relazioni sociali, culturali che Cividale aveva nell'VIII secolo con quella che era l'area bizantina dell'Italia del nord-est. Cividale del Friuli, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport, atletica, grande prestazione per il campione europeo indoor Zane Weir, atleta sudafricano che gareggia per l'Italia in virtù del nonno triestino al meeting brazzale di Vicenza dove per tre volte ha lanciato il peso oltre i 20 metri. Una serie culminata ai 22-15 raggiunti nell'ultimo lancio, misure mai ottenute in precedenza, finora era arrivato a 22-06 come massimo e che suscitano ottimismo in vista del prossimo mondiale a Budapest che inizia tra pochi giorni. A livello di record Weir è il secondo italiano a superare il muro dei 22 metri dopo Alessandro Andrei nel 1987 a Viareggio. Da sottolineare anche la consistenza degli altri lanci, tutti intorno ai 22 metri, 21,61, 21,59, 21,26. È semplicemente la più grande gara della mia carriera. Sto lavorando per rimanere concentrato e focalizzato sull'obiettivo dei mondiali e voglio continuare ad allenarmi con questa intensità, ha detto. È andata bene anche a Leonardo Fabbri, l'amico rivale che ha centrato la seconda misura personale con 21,84, un confronto che accende la sfida tra i due azzurri. Ciclismo su pista, quinto posto per l'Italia nella staffetta squadre mista dei campionati mondiali di Glasgow. Del sestetto faceva parte la zanese Maglio Moro per l'Italia. Le opportunità del podio sono sfumate a causa di un incidente meccanico ed è in corso da qualche minuto la staffetta mista di mountain bike che vede protagonista il goriziano Luca Braidotto. Calcio Udinese, all'indomani dell'impegno di Coppa Italia contro il Catanzaro, i bianconeri chiuderanno il loro programma di amichevoli estive con un test contro la Pro Gorizia, formazione che partecipa al campionato di eccellenza. La gara si disputerà a porte chiuse sabato prossimo alle 11 al centro sportivo Dino Bruseschi. E poi sarà tempo di pensare al campionato con il debutto di domenica 20 agosto alle 20.45 allo Stadio Friuli contro la Juventus. I cui biglietti saranno in vendita dalle 16 di questo pomeriggio. È possibile acquistare italiani online al sito Ticket One nelle rivendite autorizzate e presso i botteghini dello stadio aperti esclusivamente nei due giorni precedenti la partita con i seguenti orari: venerdì 18 e sabato 19 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica 20 agosto dalle 9 alle 20.45. La società comunica che i biglietti del settore Curva Nord entreranno in vendita da lunedì 14 agosto. Ancora in stallo la situazione del Pordenone Calcio, in attesa che venga completata la raccolta delle firme dei circa 80 dipendenti tesserati per la società neroverde, condizione imprescindibile per l'accordo che prevede il pagamento dell'85% di quanto dovuto a ciascuno di loro dalla società, il 30% della somma liquidata subito, il resto a rate. Mancherebbero ancora una o due firme e tutto deve avvenire entro il 21 agosto, quando il tribunale deciderà se il Pordenone deve fallire o potrà accedere al concordato preventivo, garantendo una continuità societaria. Sono solo 12 giorni dunque per rimettere in piedi la squadra. A questo proposito si fa il nome di Marcello Cottafava come nuovo allenatore e poi presentare la domanda di iscrizione alla Serie D e incassare il provvedimento di accettazione. Ma tutto questo lo ricordiamo solo dopo l'accettazione dell'accordo con tutti gli ex tesserati. Dal club neroverde ancora nessuna dichiarazione ufficiale, si respira però un cauto ottimismo, ma il fattore tempo si fa sempre più stringente. Tennis prosegue sui campi in terra dell'Eurosporting di Cordenons, l'ATP Challenger, con un montepremi da 80.000 euro. Ieri Francesco Passaro, testa di serie numero 2, attuale numero 167 ATP, ha travolto il ceco Mikhail Vrbensky con il punteggio di 6-2 e 6-0. Sul centrale, clamorosa eliminazione della testa di serie numero 1, l'austriaco Denis Novak, surclassato dal 24enne francese Matteo Martino, numero 371 del ranking mondiale. Nell'atteso derby azzurro tra Francesco Maestrelli e Francesco Forti ha prevalso il ventenne pisano per 6-2 e 6-4. Esce al primo turno Giovanni Fonio, costretto alla resa dopo una battaglia di quasi tre ore contro il rumeno Nicolas David Ionel. Bene Edoardo Lavagno, il 25enne torinese che si è imposto per 6-0, 4-1 e ritiro su Federico Arnaboldi in tabellone grazie a una wild card. Enrico Dalla Valle ha superato lo spagnolo Lopez Martin con il punteggio di 6-2-6-4. Nel derby argentino di giornata, vittoria in rimonta per Federico Agustin Gomes, che ha piegato Gonzalo Villanueva per 2-6-6-3-7-6. Questa mattina il via al secondo turno, c'è grande attesa per il match serale che vedrà protagonisti in un derby a tinte tricolori Riccardo Bonadio, numero 3 del seeding friulano, e Francesco Maestrelli. Sarà Sergio Taucher, leggendario giornalista e telecronista sportivo di Tele Capodistria, il protagonista dell'incontro L'Europa dei confini, nella rassegna estiva dei dialoghi in giardino dell'associazione culturale Bottega Errante. Taucher, partendo dal suo libro L'uomo che raccontava il basket, dialogherà con il giornalista Nicola Angeli di Confini, Europa e ovviamente Pallacanestro Jugoslava. Qualche appuntamento di oggi in regione, si intitola Vieni avanti lettore, quei libri dentro i libri, l'incontro di teatro della narrazione previsto a Casarsa della Delizia con testi scelti da Romano Vecchietti e commentati da Giorgio Monte. Inizio alle 20.45 nell'antico frutteto di Palazzo Burovic, in caso di maltempo si terrà nella sala consigliare. Appuntamento con la tournée internazionale dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con 50 musicisti under 30 provenienti da tutta Italia. Nel corso della tournée l'orchestra si è esibita in Germania e in Austria, stasera la penultima tappa con la produzione sinfonica Italian Suite diretta dal maestro Ferdinando Sulla a Lignano Sabbiadoro nella parrocchia di San Giovanni Bosco, inizio alle 21. Si intitola Atmosfere d'avant spettacolo, lo show di e con Marcello Crea nell'ambito della rassegna Trieste Estate, un tuffo negli anni 60-70 tra canzoni, monologhi e allegria, alle 21 al giardino del Museo Sartorio di Trieste. Il critico Enzo Santese presenterà a Trieste lo spettacolo di arte e poesia intitolato Liricamente. Ci sarà la mostra di fotografie d'arte di Alexandra Mitakidis insieme a una serie di letture poetiche. Appuntamento alle 18.30 all'ex lavatoio di Trieste in via San Giacomo in Montenove. Ricordiamo che oggi si tiene il secondo dei tre incontri del coordinamento Salviamo il Burlo e la Fineta di Catinara, con obiettivo informare la popolazione sulle conseguenze dei lavori a Catinara per costruire la sede del nuovo ospedale materno infantile. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto e condotto da Dario Nunzoni e Giorgio Beerz, con la collaborazione di Viola Romanese e di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.